Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e la cronaca economica, anche economica in queste giornate di coronavirus. Di cosa parleremo? Parleremo delle misure a sostegno dei lavoratori, perché la prossima settimana, come ha annunciato oggi il presidente dell'INPS Tridico, partiranno le procedure per accedere ai 5 bonus previsti, quindi partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, turismo e dello spettacolo. Sono 600 euro per 5 milioni di autonomi, ma non solo, perché appunto vanno anche gli stagionali, settore agricolo, turismo e stabilimenti termali, lo spettacolo. Un bonus di 600 euro una tantum per il mese di marzo, poi tutto questo andrà immagino rifinanziato nel mese di aprile. Per quello che riguarda invece la sicurezza sulle fabbriche, c'è un accordo tra i sindacati e il governo che si è tenuto oggi un incontro, presenti il ministro dell'economia Gualtieri, quello dello sviluppo economico Patuanelli, i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, quindi Landini, Furlan e Barbagallo. I sindacati parlano di un'ottima intesa, nel senso che da questo punto di vista viene rivisto l'elenco delle attività produttive considerate essenziali. Il decreto ministeriale potrebbe arrivare già in giornata con il nuovo elenco. Per quello che riguarda le imprese classificate in base all'attività, il dato dell'Istat riguarda solo le imprese, quindi non parla del mondo del commercio. Sappiamo che il mondo del commercio è chiuso dall'11, ma era già chiuso o comunque in ginocchio dal 23-25 febbraio, quanto a presenze e fatturati. Dicevo, le imprese classificate in base all'attività prevalente attive nei settori le cui attività non vengono sospese sono poco meno di 2.300.000 su 4 milioni e mezzo di imprese, quindi il 48% del totale non è sospesa dall'attività, che generano 2/3 del valore aggiunto complessivo, circa 512 miliardi di euro, e il 53%. Questo per far capire come sta evolvendo, chi resterà aperto e chi no. Poi vi darò anche da questo punto di vista il numero di lavoratori che sono inclusi, sempre a livello di quanti sono i dipendenti del mondo delle imprese, quanti sono i lavoratori che da questo punto di vista lavoreranno ancora rispetto al totale dei lavoratori complessivi. Adesso vi darò anche il dato. Per quello che riguarda, eccolo qua, per ora sono fermi 7.800.000 lavoratori come conseguenza del blocco delle attività previste dal provvedimento governativo, ma poi c'è anche un dato dell'Istat che adesso riprenderemo sul numero dei lavoratori che restano al lavoro rispetto al totale dei lavoratori che invece non stanno lavorando. Mi riferisco di nuovo, lo dico, solo al mondo delle imprese. Per quello che riguarda poi l'altro tema che tratteremo, chiaramente c'è l'altro tema in apertura, il confronto europeo. Allora, che cosa è successo? Come avevamo già anticipato ieri, c'è stato un nulla di fatto sostanzialmente all'Eurogruppo, tutto viene rimandato al Consiglio europeo di domani. Però le cose si muovono, adesso lo racconterò, perché c'è una lettera di 9 leader europei per chiedere i corona bond. E devo dire che anche la Lagarde, anche per rimediare quella figura di palta che aveva fatto la settimana scorsa, ha scritto all'Eurogruppo e ha spinto i ministri, cioè, o meglio, nella videoconferenza di ieri dell'Eurogruppo, ha spinto i ministri a considerare la creazione di corona bond sotto forma di un una tantum, cioè non si tratta di adesso emettere obbligazioni, quindi debito europeo per sempre, ma di farlo una tantum per aiutare l'economia della zona euro. Bisognerebbe esplorare di nuovo, ha detto la Lagarde, quindi la Presidente della Banca Centrale Europea, questa soluzione. I leader europei che hanno chiesto i corona bond sono 9, sono Macron, Giuseppe Conte, e poi anche Spagna, Sanchez, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e appunto Italia. Quindi non c'è solo il fronte cosiddetto del sud, c'è anche la Slovenia, c'è l'Irlanda, c'è il Belgio e vabbè anche Lussemburgo. Resta il fronte del nord, cioè Olanda, Finlandia, ma soprattutto dietro la Germania, come da più parti. E anche oggi devo dire che il portavoce della Merkel, Stefan Seibert, ha detto sugli eurobond: l'idea del governo tedesco e della cancelliera non è cambiata. Anche in tempi di crisi è ancora necessario che controllo e garanzia restino nella stessa mano. Sì, mi fa impazzire che dica crisi. Questa non è una crisi, è una guerra. Poi, ognuno la può cambiare come può chiamare come vuole, però basta che non si chiami crisi come fu la crisi del 2011. 2012 o addirittura 2008, forse non ci siamo capiti. Comunque, nel frattempo, anche se dice che è un tempo di crisi, la Germania, visto che è sospeso il patto di stabilità, i paesi possono fare più deficit, la Germania, che era deficit zero, ha varato un bilancio aggiuntivo da 156 miliardi di euro di nuovi debiti, che dovrebbero portare il deficit tedesco da 0 al 3% del PIL, per un piano complessivo di 1.100 miliardi. Però la fiducia delle imprese tedesche è crollata ai minimi del 2009. I positivi in Germania, visto che parlavo della Germania, qui vengo al bollettino perché ci serve a capire come si stanno muovendo anche gli altri paesi europei, sono saliti a 32.900, sempre, anzi 35.000 scusatemi, cioè come l'Italia il mercoledì 18 marzo. I morti sono meno, ma sappiamo che in Germania ci sono molti dubbi su come vengono stati conteggiati i deceduti, sono 181. Impressionante invece quello che sta capitando in Spagna, perché la Spagna ha superato anche con numero di decessi, ahimè, la Cina, e ha avuto 738 morti in più negli ultime 24 ore, un dato che, diciamo, avendo tutta la serie storica, l'Italia ha visto così alto come il numero di morti solamente il sabato 21 marzo, col picco, col record, spero che resti tale, non ve ne siano altri, di 793 morti, e è arrivata a 47.000 contagiati con 8.000 nuovi contagi in un giorno, cioè tra ieri e oggi, una cifra che obiettivamente nemmeno noi abbiamo mai visto. Nell'aumento dei positivi, sì, oddio, l'abbiamo vista, ci mancherebbe. Però come così forte come aumento dei positivi, io che ho la serie storica non le ricordo in Italia. Noi siamo arrivati a 4.800, eccola qua, 4.800, ma 7.900 nuovi contagi non li abbiamo mai visti nemmeno noi. E lo dico chiaramente, non è una gara, ci mancherebbe. La Spagna con 47.000 casi confermati in tutto e 3.434 morti è al quarto posto dopo Cina, chiaramente, come con casi contagiati, Italia che è a 69.000, ma adesso avremo un aggiornamento, alle 18, Stati Uniti 55.000, Spagna 47.600. Devo dire che se si va a guardare, viste le polemiche che ci sono in Italia sul numero di deceduti e in base ai casi, noi quando toccammo 47.000 casi, cioè venerdì 20, cioè la Spagna è esattamente come noi venerdì scorso, sta mangiando purtroppo per la Spagna la distanza temporale che aveva, che inizialmente era di 9 giorni, poi è scesa una settimana, adesso è scesa a 4-5 giorni scarsi. E dicevo, il numero di deceduti che noi avevamo era leggermente più alto, 4.000 contro i 3.400 spagnoli. È impressionante però anche un'altra cosa, la Gran Bretagna che si prepara a chiudere il Parlamento, vabbè, i casi ne ha oggi dichiarati 8.300, e quindi come l'Italia sostanzialmente tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo, quando ci fu poco prima della chiusura totale del paese e quando avevano già chiuso Lombardia e altri comuni. Impressionante, dicevo, dalla Gran Bretagna che il numero di morti in Gran Bretagna, al di là delle teorie iniziali di Johnson, è identico a quelli italiani, cioè noi avevamo con una cifra del genere circa 400 morti, loro ne hanno 434. Questa dimostrazione, ahimè, che vi sono delle variabili, delle costanti, scusatemi, incredibili anche nella dinamica, pur avendo la Gran Bretagna appunto un ritardo su noi di circa 2 settimane. Mi chiedete la Germania, l'ho data, la Francia non lo do perché la Francia arriva sempre più tardi e quindi arriverà verso le 7:30. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Io sto parlando di numeri ufficiali, so che qualcuno contesta e dice i conteggiati in realtà sono molti di più, ho capito, io mi baso sui numeri ufficiali. Veniamo ai mercati. Giornata molto altalenante oggi. Milano è riuscita a scendere prima positiva, poi negativa, ha perso il 2%, adesso guadagna lo 0,60 e sopra i 17.000 punti l'indice. Parigi più 3,20, Francoforte più 0,70, Londra più 2,5, Dow Jones guadagna bene ancora sul piano di Trump da 2.000 miliardi, più 3,60% per quello che riguarda la borsa americana. Tra i titoli oggi negativi, Pirelli meno 5,80, Telecom meno 4, Atlantia meno 3,80, ricordati meno 3 come Prismian, il 2,80 lo perde Buzzi Unicem, il 2,50 Banco BPM, il 2,30 Fineco Banca, il 2% Era. E invece Leonardo più 9,94, Azimut più 9,40, Mediobanca più 8,30, Campari più 6,30, Exor più 4,80, Moncler più 4% come stima Microelectronics, Eni più 3,60, Banca Mediolanum più 3, Case New Holland più 2,40, Intesa più 1,60 come Generali, Italgas più 1,20 come Chrysler. Euro su dollaro a Fiat Chrysler, euro su dollaro a 1,08, quindi sostanzialmente in linea, anche un po' debole rispetto al dollaro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Perché non dite che la Germania ha accolto 8 nostri malati in terapia intensiva? L'hanno detto i nostri GR24, perché non ho nessun problema a ribadirlo. Prima di arrivare appunto al dibattito sul piano straordinario europeo, faccio notare che questa mattina anche Tokyo ha chiuso molto alta, più 8%, ma qui gioca anche il fattore Olimpiadi, cioè il sollievo degli investitori per il rinvio delle Olimpiadi, perché il sollievo perché l'ipotesi era la cancellazione vera e propria che avrebbe vanificato tutti gli investimenti giapponesi per le Olimpiadi. Bene anche Seoul questa mattina, più 5,90, Hong Kong più 3,80, Shanghai più 2,20, Shenzhen più 2,90%. La zona del Wuhan dall'8 aprile tornerà a avere collegamenti aerei commerciali, però tranne i voli internazionali e anche quelli con Pechino. Stanno da oggi, sono operativi in Wuhan, cioè quello che è stato il focolaio, il centro iniziale dell'epidemia, sono operativi i treni, e dal 28 marzo saranno operativi gli arrivi ferroviari, dall'8 aprile anche le partenze da Wuhan. E Putin, che ha chiesto adesso una settimana di lockdown, di contenimento, quindi ai russi di stare a casa. Dicevo, Putin in Russia ha introdotto la oligarch tax, cioè una tassa del 15% sui capitali che dalla Russia vengono esportati all'estero e una tassa del 13% sugli interessi generati da investimenti finanziari, solo se il capitale investito è superiore a 1 milione di rubli, cioè 12.000 euro, e i profitti verranno utilizzati per finanziare le misure sociali anticrisi. È una tassa sugli oligarchi, cioè sulla parte più ricca della popolazione. Qualcuno mi chiede anche del modello israeliano. Sì, ne parliamo forse un po' presto, però è molto interessante il piano predisposto da Israele sui tre semafori, sia per la popolazione che per le imprese, per le attività economiche. Si sta già ragionando sul unlockdown, cioè sulla riapertura. Israele ha un modello che si sta osservando, io spero che venga osservato con attenzione anche in Italia, che divide per tre fasi sia la riapertura delle attività economiche, sia la maggior libertà di circolazione alle persone. Sostanzialmente divide, lo dico subito visto che me lo chiedete, divide i cittadini in tre, con tre protocolli: fino a 55 anni verde, quindi, e poi da 55 a 65 anni giallo, oltre 65 rosso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella fase di unlock loro dicono sostanzialmente potremmo iniziare a far circolare i cittadini che hanno meno di 55 anni dal 16 aprile in poi. Poi la fascia, diciamo, da 55 a 65 potrebbero circolare dopo il 21 aprile, e la fascia invece più a rischio, non contagio ma a rischio, diciamo, vita, oltre i 65 anni fino al 2 maggio, con un'assistenza domiciliare e i servizi, il recapito della spesa a casa. Stessi semafori e step Israele li ha individuati anche per le attività economiche, e cioè dopo il 14 aprile, dopo Pasqua, potrebbero riaprire l'attività delle imprese che hanno chiuso con l'ultimo decreto di cui parlavo anche prima, che c'è la lista aggiornata, e i lavoratori che a quel punto hanno fino a 55 anni, perché vale la tripartizione anche per età. Quindi tu hai meno di 55 anni, la fabbrica ovviamente ha messo in sicurezza, l'impresa ha messo in sicurezza, e quindi tutto è rispettato come dispositivi di sicurezza, tu puoi tornare al lavoro, così come l'impresa può aprire dopo il 14. Poi loro prevedono il 21 aprile la volta di negozi, bar e ristoranti, pur con l'obbligo di una distanza di un metro, e quindi tavoli molto distanti e quant'altro, magari orario ridotto d'apertura. E anche qui tu avresti le persone che possono uscire, a quel punto sarebbero quelli tra i 55, aggiungeresti quelli tra i 55 e i 66 anni. Ultima fase e semaforo verde, quando tornano a uscire anche le persone sopra i 65 anni e riaprono le scuole, loro lo prevedono il 2 maggio, quindi togliere le limitazioni di spostamento per tutti e riaprire le scuole. Mi sembra uno schema da guardare con attenzione, non tanto per le date in sé, ma per l'evoluzione passo dopo passo, che permette anche di dare un po' di speranza e un po' di visione alle varie categorie coinvolte, sia le categorie economiche, mondo delle imprese, poi il mondo del commercio e l'attività scolastica, sia per la fascia d'età. Di quello che ho letto in giro, mi sembra lo schema, come sempre arrivando da Israele, molto, molto razionale, molto concreto, che secondo me dà anche una prospettiva, perché è ovvio che non potremo riaprire tutto all'improvviso, scuole, imprese, bar e tutti fuori. Bisognerà andare per fasi, e alcune categorie apriranno dopo, penso agli studenti e alle scuole e ai commercianti, altri potrebbero aprire prima. Sì, qualcuno dice devono passare 2 settimane. Sì, loro prevedono un tempo più basso, ma ripeto, non è il tema se 16 aprile o 21 aprile o 2 maggio. Loro hanno diviso in queste tre date per vedere l'andamento. Uno può anche, però l'importante è dare una prospettiva anche al paese in questo momento. Cioè, guardate che inizieremo, appena abbiamo dei segnali confortanti e più strutturati, ad operare in questo modo. Allora, andiamo avanti rapidamente, al di là del piano tedesco di cui parleremo tra un attimo. Ci sono dichiarazioni della Banca d'Italia che dice che le piccole e medie imprese sono le più esposte al rischio credito, la garanzia alle grandi aziende deve essere data solo se in difficoltà, occorre prendere altre misure, dice la Corte dei Conti, come nel post-guerra. L'Istat parla di uno shock inimmaginabile all'economia mondiale, e adesso ho il dato dell'Istat sui lavoratori dopo il DPCM dell'11 e del 22 marzo. Allora, il numero di occupati nel 2019 era pari a 23.360.000 persone. I 2/3 è occupato ancora nei settori attivi, per un totale di 15.430.000 occupati. Il restante 34%, 8 milioni di persone, è in uno dei settori che il decreto 11 marzo e 22 marzo hanno sospeso, quindi attività commerciali e poi le imprese che non rientrano nella lista delle imprese essenziali. Però questa classificazione non distingue tra quanti possono lavorare in smart working, cioè tra chi lavora, la maggior parte sta a casa, questo voglio dire. I 15 milioni e 430 mila occupati, la stragrande maggioranza sta lavorando da casa, non vuol dire che abbiamo 15 milioni di persone che ogni giorno si recano al lavoro in Italia. Due buone notizie, una era di qualche giorno fa, perché due giorni fa l'azienda Giovanni Rana aveva annunciato un piano straordinario di aumenti salariali per 2 milioni di euro come riconoscimento per i 700 dipendenti presenti nei 5 stabilimenti in Italia che stanno garantendo la continuità nell'approvvigionamento alimentare. La Rana produce pasta fresca, tortellini, non devo spiegarvelo io cosa fa la Rana, e quindi la loro retribuzione aumenterà del 25%, e poi vi sarà un ticket da 440 euro per babysitter e assicurazione in caso si contragga il virus. Oggi, decisione analoga l'ha annunciata anche la Mutti. Mutti produce una famosissima passata di pomodoro, non solo. Francesco Mutti era nostro ospite anche qualche settimana fa in quanto rappresentante invece di alta gamma. Comunque aumenta del 25% lo stipendio dei lavoratori, poi ha dato mezzo milione di euro all'azienda ospedaliera di Parma. Però insomma è importante che le imprese aperte possano dare anche degli incentivi, perché è chiaro che i lavoratori in questo momento, di chi sta, il governo ha dato 100 euro nella manovra per ogni lavoratore che sta ancora lavorando, se non ricordo male sotto i 35.000 euro di reddito. Però è importante che le imprese che stanno lavorando a pieno regime, tra l'altro, perché come abbiamo spiegato molte volte i consumi alimentari non si sono fermati, sono stati dirottati sul canale GDO, supermarket alimentari, grande distribuzione organizzata, visto che è fermo il canale Horeca, hotel, ristoranti e catering. Però tutti noi stiamo consumando molto più cibo, i dati che abbiamo diffuso la settimana scorsa erano più 22% anche nella terza settimana da quando è iniziata, diciamo, nelle vendite dei supermercati. E quindi secondo me chi può è giusto che dia un riconoscimento ai suoi lavoratori. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vediamo di fare il punto. In questo momento l'Europa che cosa ha previsto? Ha previsto l'area euro che il patto di stabilità sia sospeso, quindi non c'è più il vincolo che ogni paese doveva dare di ridurre il deficit fino a portarlo a zero, ma ogni paese, insomma, è fuori vincolo, il che però vuol dire che tu sei libero di aumentare i tuoi debiti, come la capisco io. Il deficit è la differenza tra quanto entra e esce nelle casse dello Stato in un anno, mettiamola in maniera molto semplice. E quindi è come se la banca dicesse: sì, puoi aumentare la linea di credito che hai con me, l'indebitamento, non ti chiederò più di rientrare. Il problema è che poi i debiti vanno pagati e soprattutto non si partiva tutti dalle stesse condizioni. La Germania aveva deficit zero e quindi butta 156 miliardi, che sono poco meno del 3% del PIL tedesco, se non ricordo male, cioè porta il deficit al 3%. E ne è pronto a mobilitarne molti di più, perché adesso devo andare a riprendermi la notizia. E Scholz, che è il ministro tedesco delle finanze, Olaf Scholz, ha detto: è una somma gigantesca, noi possiamo permetterci comunque un deficit del genere, perché eccolo qua, il piano è da 1.100 miliardi complessivamente. Però la Francia, che viaggiava con un deficit al 3,9, ha detto già che lo supererà, e anche lei. L'Italia aveva un deficit intorno al 2,2-2,3%, però queste sono misure provvisorie. Lo scontro è tutto in questo momento sulle misure invece post-emergenza pura, e quindi come ricostruire il tessuto economico europeo, come far ripartire l'Europa. Non bastano i 600 euro, le misure tampone, rinviare il mutuo per la casa o altre forme di in questo momento appunto si tenta di non far spendere agli italiani. Il problema è poi che dovrai mettere soldi nelle tasche degli italiani. Professor Mario De Aglio, economista e nonché docente di economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a tutti. Noi stiamo raccogliendo in questi giorni sia testimonianze di economisti per capire, dare un contributo, che di settori produttivi. Infatti poi parleremo del mondo del trasporto marittimo, altro settore in completo ginocchio, sia sul fronte crocieristico che non solo. Però andiamo con ordine. Ieri la Lagarde, nella videoconferenza con l'Eurogruppo, ha spinto i ministri europei a considerare la creazione di un corona bond sotto forma di un una tantum. Dice, non si tratta di fare adesso iniziare a fare debito europeo, una tantum, i paesi vi attingono e lì parte il rilancio. Lei pensa che potrebbe essere una buona idea il corona bond fatto, come lo chiede la Lagarde, una tantum nei vari paesi? Come idea è senz'altro buona, non penso che in questo momento passerebbe, perché i paesi del nord soprattutto, i quali hanno poco coronavirus e tanti soldi, non sono molto d'accordo a contribuire a questo bond che aiuta soprattutto i paesi del sud. Quindi bisognerebbe aspettare gli eventi, intanto cinicamente, se si può essere cinici in queste cose, bisogna vedere se l'epidemia si espande anche da loro. Secondo me l'ho detto anch'io, mi hanno detto che ero troppo cinico, però in effetti vedere che la Germania ha 35.000 casi ti fa capire. La Francia per esempio ha firmato la lettera di Conte oggi, cioè Conte, Macron, Sanchez, Portogallo, quindi Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Portogallo, forse l'avevo già detto, 8 leader europei per chiedere i corona bond. Sarà un caso, la Francia ha grossi problemi, sta viaggiando intorno ai 25.000 casi e ha superato ieri 1.000 morti e quindi viaggia sostanzialmente come noi intorno a domenica 15 marzo. La Spagna è, lo ricordavo in apertura, in ginocchio, purtroppo peggio anche di noi come progressione in rapporto alla popolazione. Sì. E quindi lei dice, forse, lo so che è un po' cinico, però alla guerra come alla guerra, forse bisogna che aumenti la sensibilità nei paesi del nord Europa? Assolutamente sì, se no finché non sentono il fiato dell'epidemia non capiscono perché devono contribuire ai nostri deficit. Rimane sempre la stessa vecchia posizione di superiorità nordica, diciamo così. Qui si possono trovare delle soluzioni, però. Una soluzione era la proposta avanzata a suo tempo da Romano Prodi e Quadrio Curzio, i quali ricordano che l'Italia è uno dei paesi più ricco di oro. Abbiamo riserve d'oro per quasi 200 miliardi. Mm-hmm. Allora, se il corona bond avesse come garanzie, l'oro. Tra l'altro questa cosa qui è valutata a pressoché zero nelle nostre riserve, 40 euro all'oncia quando ne vale 1.600. Mm. Allora, 40 dollari all'oncia, sì. 1.600. Allora, se noi valutassimo, le conferissimo alla banca centrale, anche senza spostare niente, perché poi spostare loro è complicato, si trova un po' qui, un po' là, eccetera, diamo in gestione alla banca centrale come garanzia del debito, noi e tutti gli altri, ci siamo noi i tedeschi e i francesi a avere tanto oro. Benissimo, noi facciamo questo e poi emettiamo i bond fino a una garanzia totale che si può stabilire. Allora il discorso prende un'altra piega. Quindi lei sta, adesso andremo troppo sulla storia dell'economia, ma qui assomiglia un po' al dollaro prima di Bretton Woods agganciato all'oro, nel senso, lei dice, se questo debito avesse come copertura le riserve auree, che da noi valgono 200 miliardi, sono tra le più alte al mondo, ma tra l'altro le contiamo molto poco perché le valutiamo 40 dollari all'oncia, le dico quanto fa oggi l'oro perché ce l'ho tutti i giorni, ne fa 1.600 di dollari all'oncia, quindi i corona bond che tu sottoscrivi, che sono obbligazioni poi, no? Come garanzia hanno il tuo oro, allora renderebbe meno fragile il sistema. Però dopo il metodo vorrei chiederle ancora due cose, professor De Aglio. La prima e lei giustamente ricordava che questa è una proposta di Romano Prodi e Alberto Quadracurzio. La prima è, c'è chi dice, attenzione ragazzi, ma non possiamo fare ricattare paesi come Francia, Spagna e Italia, e cito volutamente i più grandi, dall'Olanda, che è nota in Europa per i vantaggi fiscali che gode e quindi le aziende che... Cioè a un certo momento non tutti i paesi sono uguali, non possiamo far sì che l'Olanda e la Finlandia, che valgono come PIL forse la Lombardia e Veneto, dettino le regole quando hai economie come quella spagnola, quella francese e quella italiana già molto molto provate da quello che è successo. Vorrei sapere che ne pensa. Poi invece vorrei sapere che ne pensa sulla necessità di una cabina di regia anche economica. Adesso noi abbiamo una task force tra Borrelli, in bocca al lupo visto che è positivo al coronavirus, e Arcuri, insomma la task force nostra, Brusaferro, è tutta legata all'emergenza sanitaria. C'è chi dice occorre fare una task force anche di carattere economico per non farsi trovare impreparati quando si potrà riaprire, che non può essere solo affidata diciamo, al ministro dell'economia, ha bisogno di un gruppo di lavoro più consistente, perché bisognerà lavorare nello specifico di ogni singolo settore. Dopo il meteo, la risposta. Focus Economia. Allora, professor De Aglio, lei diceva cinicamente, lo dicevo anch'io due giorni fa, beh, forse il contagio non ha colpito ancora abbastanza i paesi del nord per fare capire di che guerra si tratti, e devo dire, insomma. Però c'è anche un altro tema, si può andare avanti, io capisco uno vale uno fino a un certo punto, ma si può andare avanti quando tre dei quattro principali paesi dell'area euro, e quindi Italia, Francia e Spagna, chiedono i corona bond e tu hai l'opposizione di Olanda e Finlandia. So anch'io, come mi scrive qualcuno, che dietro c'è la Germania che non vuole esporsi. Però insomma non è un po', non è che l'Europa possa restare a scacco dalla Finlandia, con tutto il bene che voglio a Suomi, prego. Anch'io, con tutto il bene che voglio ai finlandesi che sono simpatici e agli olandesi che sono antisimpatici, devo dire che il loro potere di, chiamiamolo, di contrattazione, non di ricatto, perché non è il caso, eccetera, è limitato. A un certo punto ci sono tante decisioni che noi possiamo prendere a maggioranza, dove se noi fossimo d'accordo, fosse d'accordo anche la Germania, loro sarebbero sospinti in poco tempo verso i margini. Quindi il big fish è la Germania, bisogna convincere la Germania alla fine. Bisogna convincere la Germania, secondo me la signora Merkel è abbastanza convinta, anche perché è molto vicina alla recessione, quindi non può, avendo già stanziato quella somma, si capisce che ha dei problemi molto seri, ha anche un'opposizione di destra che è legata a scontento popolare, a difficoltà di trovare lavoro soddisfacente, eccetera eccetera, tutte le solite cose anche lì sono, bollono nella pentola. Quindi se quattro paesi grossi decidono di farlo, al limite, come è successo con l'euro, che qualche paese è rimasto fuori, benissimo, rimarranno fuori sia dalle garanzie sia eventualmente dai benefici. Sì, ecco, questo potrebbe, cioè, Olanda e Finlandia non potrei partecipare a questo e non dovrei dare garanzie per i corona bond. Molti mi scrivono della sua frase sull'oro che da noi è valutato a $40. Se ho ben capito, lei dice che nel bilancio dello Stato i 200 miliardi di oro che abbiamo a prezzo di mercato sono valutati molto molto meno. Assolutamente sì. Intanto sono nel bilancio della Banca d'Italia. Della Banca d'Italia, ragione, mi scusi. E sono valutati al prezzo a cui sono stati acquistati, non sono mai stati rivalutati. Avevamo anche chiesto di rivalutarli, noi e i tedeschi, perché anche i tedeschi sono forti e i francesi sono da sempre storicamente, e mi pare che ci fu una sentenza sfavorevole della Corte Europea. Vabbè, che ha detto che non si poteva fare questo perché era un'immissione di di valuta senza, mentre tutto in realtà le tonnellate d'oro rimanevano le stesse. Ora io credo vabbè, che adesso questo era un secolo fa, diciamo, no? Appunto, era l'altro secolo. Sì. L'altro secolo, appunto. E credo che adesso invece le cose si possono vedere in maniera nuova e questo è una grossa risorsa europea che può essere negoziata, eccetera, una strada da percorrere. Sì, secondo me è appunto l'importante è però il consenso politico, poi uno può trovare le formule che vuole, appunto dare l'oro in garanzia, visto che poi verrebbe a quel punto sì rivalutato e non avremmo anche un beneficio. La convince l'idea di un corona bond come prestito perpetuo, cioè o del debito che ha una scadenza così lontana, 50 anni, che diventa di fatto un finanziamento, non dico a perdere, ma insomma che non vai a riscuotere in un tempo ragionevole? Sì, diciamo che preferirei non farlo, ma siccome non abbiamo molte altre possibilità di far ripartire l'economia, tutto sommato forse non è una cattiva scelta. Ma quello si potrebbe applicare con il corona bond, cioè sarebbero delle obbligazioni da ridare a quel punto un prestito da ridare fra 50 anni? Si possono fare in due modi, o ridare con dei periodi lunghissimi o addirittura renderli perpetui. Perpetui, infatti, si ragionava su questo. Noi sappiamo che tutti gli anni, per sempre, pagheranno un determinato interesse. Okay. E quindi noi abbiamo avuto in Italia una cosa del genere, si chiamava il prestito irredimibile. Irredimibile, vero? Irredimibile, poi a un certo punto era una cosa del fascismo, nella stabilizzazione della lira hanno fatto anche questo, poi il suo valore era sceso talmente, negli anni 60, lo Stato se lo ricomprò tutto. Quindi gli strumenti, poi se uno vuole, politicamente vuole, ci sono, potresti appunto dare a garanzia parte delle riserve auree, potresti fare che sì che questo prestito non sia a fondo perduto completamente, ma generi un interesse e magari o lo dai a una scadenza così lunga e per cui diventa quasi irredimibile, oppure lo rendi proprio irredimibile, cioè paga solo gli interessi, ma nessuno lo va a chiedere. E poi, come ricordava lei, lo Stato italiano, poi quando quel prestito il valore reale diventò bassissimo, se lo fece prima ricomprarselo. Tutto. Quello che a me piacerebbe vedere con Corona Bond è una presenza di Bruxelles. E cioè non deve essere così un permesso di spesa ai governi e basta, ma ci dovrebbe essere un coordinamento europeo, e cioè è praticamente quello che Ursula von der Leyen vuole fare per i bond verdi, reso più urgente e fatto subito. Insomma. Quindi, e se non si vuole farlo amministrare dalla Banca Centrale Europea, ci può sempre prendere la Banca Europea degli Investimenti che lo gestisce, ma ci deve essere appunto qualcuno a Bruxelles. Cioè non è l'Italia. L'Italia chiede, poniamo 50 miliardi, adesso dico una cifra per. E però poi la gestione di questo prestito, e immagino anche il suo utilizzo, perché non è che può spenderli per le partite correnti. Il suo utilizzo deve essere armonizzato con quello che spendono gli altri. Con quello che spendono gli altri, quindi immagino infrastrutture, settori produttivi che in ginocchio, che dimostrino, ma non spesa corrente, ecco, direi io. Esattamente. Cioè, no, questo è non fotocopie e spesa, e magari tagliare anche un po' di sprechi qui, ma questo non voglio fare polemica. Aiuterebbe. Professore, mi dica solo un'ultima cosa. A livello invece di governo, da più parti, lo avanzava l'ex ministro Calenda, si sta chiedendo una cabina di regia più ampia, cioè di non lasciare tutto solo a Gualtieri e Patuanelli, avere un gruppo di lavoro che inizi già a lavorare sul post coronavirus, cioè quando dovremo andare a vedere quali settori sono in ginocchio, quali settori invece non hanno avuto quasi nessun calo, e i singoli interventi che saranno complicatissimi, perché un po' come gli amori infelici di Anna Karenina, un buco. Sì. Ogni settore è infelice a modo suo. Certamente, ci sono però, forse non è tanto la logica dell'aiuto al settore perché è un settore, ma bisogna partire dall'altro punto di vista, che cosa manca in questo paese. Allora, il coronavirus ci insegna che il settore della salute deve essere rimesso a posto, dopo essere stato oggetto di tagli magari anche insensati in un certo senso per molto tempo, bisognerà farlo, e andrebbe fatto secondo criteri che non siano molto diversi da quelli francesi e tedeschi. Ecco, sì, sì, certo, uno potrebbe dire il coronavirus lo usi per la sanità in primis, per le infrastrutture e per ma questo avrebbe il vantaggio, lo dico a chi mi scrive, di liberare altri soldi per poi interventi diretti dello Stato italiano. Cioè, se tu non ti devi più caricare di quei soldi perché è un prestito a lunghissimo termine o per sempre, poi le finanze dello Stato potrebbero liberare altri soldi per altre iniziative. Mi stava dicendo, l'ho interrotta prima del traffico, professore? Sì. No, mi stava dicendo, quindi non tanto i singoli settori quanto i campi di intervento, sanità. I campi di intervento, sì, sanità, istruzione, comprese le scuole che hanno i tetti che crollano, e poi la lista è lunga, insomma, ne abbiamo tanti, vediamo che sono tanti, vanno fatti, vanno coordinati, e questo è un grosso intervento di base. Poi gli altri settori per settore che avranno invece delle durate più brevi si possono senz'altro mettere in cantiere. Abbiamo già degli strumenti, la Cassa Depositi e Prestiti non funziona male, quindi abbiamo cose del genere. Sicuramente dobbiamo proseguire su questa strada, e certamente a questo punto la fase dei tecnici puri, che quindi ragionano in termini di letti, di vaccini, di cose del genere, deve essere superata da qualcuno che pensa anche a cosa vuole fare questo paese tra 10 anni e tra 15 anni. Anche tra 10 mesi, aggiungerei io, come, e poi la sburocratizzazione, i temi sono tantissimi. Comunque, grazie anche al professor Mario De Aglio. Andiamo adesso sul traffico, un po' in ritardo, poi della chiusura di borsa, non male, alla fine più 1,74% per Milano, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Sì, molti mi fanno notare anche le reti di trasmissione, ce ne siamo accorti in questi giorni quanto il paese sia fragile sulla trasmissione telefonica e quanto si stiano creando studenti di serie A e studenti di serie B a seconda di quello che è la copertura poi della rete. Dico per esperienza diretta che anche quando gli studenti dovrebbero avere una buona rete, perché Milano dovrebbe essere buona, le lezioni scolastiche dopo 2 ore crolla il sistema, diciamo, devo anticipare lezioni perché alle 10 si affolla, viene giù la piattaforma, cioè voglio dire, ragazzi. Molte partite IVA mi stanno scrivendo, autonomi. Allora, veniamo di capire cosa ha detto Tridico oggi. Dalla prossima settimana iniziano le procedure per accedere ai 5 bonus. Allora, il bonus è di 600 euro una tantum, vale per il mese di marzo, e include partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, quelli del turismo e dello spettacolo. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera Davide. Buonasera. Prima domanda, turismo vuol dire anche alberghi, ristoranti, immagino, no? O no? Sì, direi di sì. Io credo in particolare che per turismo si intenda molti lavoratori che sono stagionali, che sì, sono certo. In questo momento usciti da una cassa integrazione stagionale, che non vedono il mese di Pasqua con il contratto certo. Stagionale per Pasqua, per esempio. Oh, la prima cosa che per te, poi magari poi riprendiamo dopo il GR24, al di là di questi 600 euro, che mi rendo conto non essere tantissimo, ma sono una prima... Anche perché i mutui sono sospesi per chi avesse un mutuo, le scadenze fiscali rinviate, spero ancora di più, ma comunque Tridico ha chiarito se la procedura burocratica sarà all'italiana o invece una procedura burocratica da tempi di guerra? Nell'intervista che pubblichiamo domani spiega che c'è una procedura con PIN facilitato, cioè tu inserisci i tuoi dati e ottieni sul cellulare il codice con cui poi procedi per chiedere il bonus, quindi dovrebbe essere, non c'è più il tempo della spedizione per posta del PIN almeno quello, vediamo, dovrebbe essere semplificata la procedura ed è operativa entro il 31 marzo, quindi i primissimi giorni della settimana prossima dovrebbero essere pronti a ricevere le domande. Allora, Davide, resta con noi perché adesso al GR24 poi avremo la conferenza stampa che viene confermata anche appunto se Borrelli non vi sarà perché ha dei leggeri sintomi febbrili, però Bertolaso invece è confermato positivo coronavirus, me l'avevamo già detto, però resta con noi perché vorrei capire ancora due cose sul tempo di erogazione e poi su quello che si prevede su aprile. 349-238-6666, mi chiedete anche se vale per i titolari di agenzie turistiche, risponderemo anche a questo, risponderà anche a questo Davide Colombo dopo il GR24. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate. Vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Papi, passiamo a prendere Marta e Giulia e andiamo a pattinare. Dai, dai, dai! Ok. Aspetta, aspetta. Però poi vorranno venire anche Carlotta e Camilla. Carlotta ama pattinare, non sai quanto è brava. Sa fare le piroette. Va bene. E Silvia, Silvia è troppo la mia migliore amica. Ehi, Mercedes, chiama la babysitter. Oh, no! Ehi, Mercedes, andiamo a casa di Silvia. Nuovo GLB, grande come la tua vita. Da 35.390 euro. Scoprilo su mercedesbenz.it. I ritardi nei pagamenti delle fatture mettono a rischio la tua azienda. Con Incassa Subito del gruppo Team System ottieni liquidità immediata. Per maggiori informazioni vai su teamsystem.com. Focus Economia. Minuti, torneremo con Davide Colombo tra pochi minuti per capire a chi si applicano i 600 euro e come funzioneranno, però sono usciti i dati della protezione civile. Allora, devo dire, sempre con massima prudenza, vogliamo sentire un attimo la protezione civile? Fanno riferimento e al momento abbiamo trasferito quindi dalla Lombardia 32 pazienti Covid e 40 pazienti non Covid in altre regioni e in Germania, come detto. Beh, è già arrivata la parte della distribuzione. No, devo dire, allora, i morti sono ancora tanti, 683, in calo rispetto a ieri che dove erano 743, ma più di lunedì dove erano 600 e di domenica dove erano 651, meno di sabato. La cosa che stiamo seguendo, anche se mi rendo conto che è l'incremento giornaliero delle morti sul totale, che è passato dal 13 di domenica all'11 di lunedì al 12 di ieri, oggi è più 10%, quindi il dato più positivo mi sembra il numero dei nuovi positivi, perché sono 3.491 in più, che da quello che ho io nelle mie tabelle è l'incremento più basso da mercoledì 18 marzo, quando furono 2006. Da allora poi si andò sempre su livelli più alti, più 4.400, più 4.400, più 4.600, più 4.800, più 3.970. Ecco, questo dato di oggi segnala, e questo è l'elemento positivo, un calo nell'aumento giornaliero dei positivi, perché è del più 6,4% l'aumento dei 3.491. Ieri furono 3.600 con un aumento del 7%, il giorno prima, lunedì, furono 3.780 con un aumento dell'8% e domenica furono 3.957 con un aumento del 9%, sabato furono 4.821 con un aumento del 13%. E venerdì 4.670 più 14%, giovedì 4.480 più 16%. Quindi cosa vuol dire? Che l'incremento rispetto a giovedì scorso, quando è stato più 16, poi ha fatto più 14 venerdì, più 13 sabato, più 9 domenica, più 8 lunedì, più 7 ieri, più 6,4% oggi. Questa mi sembra notizia senza facili entusiasmi, perché sono comunque 3.491 nuovi positivi, però sta rallentando, ormai è il quarto giorno di fila, anzi se andiamo indietro con la serie da giovedì che rallenta, l'incremento dei positivi, che è fondamentale per evitare la saturazione e l'implosione delle strutture ospedaliere. Cala ancora il numero dei nuovi malati, infatti titolano le agenzie, le vittime sono alte ma in calo rispetto a ieri. Faccio notare che la Spagna oggi ha avuto 4.700 positivi in più in un giorno, e quindi come incremento ci ha ampiamente superato, oltre che ahimè per la Spagna come morti. Ma insomma, restiamo all'Italia, visto che con oggi sono esattamente 2 settimane dal famoso lockdown del paese. Mercoledì Lombardia e altre città avevano iniziato prima, ricorderete, tra sabato e domenica, sabato 7 e domenica 8. Questi giorni sono fondamentali per vedere se le strategie di contenimento dopo 2 settimane stanno dando dei risultati. Sembrerebbe, uso il condizionale di sì, perché l'incremento sta scendendo, più 6,4%, poi magari domani, spero di no, vengono smentite. I guariti sono 1036 più di ieri, quindi insomma la cosa più importante, oltre a me, è un numero di morti ancora alto, però abbiamo superato le 7.000 vittime da questo punto di vista, con queste 683 in più di ieri sono complessivamente 7.500 le vittime. Questo la dice lunga sull'impatto che ha avuto, che sta avendo questa epidemia. Però adesso vedremo anche la parte che riguarda la Lombardia appena mi arriva, adesso non lo sto vedendo, però insomma segnala un rallentamento della crescita, speriamo di poter dare questo segnale anche domani. Qualcuno mi chiede i nuovi ricoveri, abbiamo visto che ormai più del 50% dei positivi viene ricoverato e di solito il 10% viene ricoverato in terapia intensiva. Ecco perché dico è importantissimo che il numero rallenti, perché più o meno la cifra del 10% si è mantenuta in queste settimane, vuol dire che ci sono 340 malcontate persone in terapia intensiva su 3.490 in più, però i guariti sono saliti di 1.036 unità. Comunque speriamo. Sì, abbiamo detto che il dato sull'incremento dice una cavolata l'ascoltatore che scrive: l'incremento dei positivi rallenta perché la gente muore. Non ha capito nulla, l'incremento che stiamo guardando è dei nuovi positivi, quindi abbia pazienza, non mi sembra il caso di sparare minchiate in questo periodo. Stiamo guardando i nuovi positivi perché è fondamentale capire come si espande l'epidemia e la percentuale. È ovvio che se tu aumenti la base numerica, anche un più 6% su una base di 3.000 darà un dato alto, però è importante la percentuale perché gli altri paesi stanno crescendo a due cifre ancora, Germania, Spagna, vedremo la Francia, ma anche la Francia cresce intorno al 15-20%, e quindi è importante se noi stiamo salendo, è importante anche per gli altri paesi che tutti stanno guardando l'Italia per capire sto contenimento che l'Italia ha iniziato per prima serve o no. Come incremento sembrerebbe servire. Allora, Conte in diretta, sì, lo so che è in diretta Conte, sentiamo un attimo cosa sta dicendo il Presidente del Consiglio e il Parlamento. I cittadini, scelte che condizioneranno. Però adesso non posso fare tutta la puntata su Conte, tanto passaggi dell'intervento del Presidente del Consiglio in Parlamento verranno ripresi per i nostri GR24. Davide Colombo, torno da te. A parità di tamponi fatti, no, questo non lo so, i tamponi comunque continuano a esserci. Vabbè, Davide Colombo, dicevo, questi 600 euro ci chiedono molti ascoltatori a chi si possono applicare, perché vogliono capire, tu raccontavi già di una semplificazione su questo, e se da questo punto di vista si sa già se il governo sta pensando a una seconda misura, una tantum per aprile. Bah, dunque, intanto diciamo che attualmente la misura di 600 euro è riconosciuta per almeno 5 tipologie di lavoratori, fuori naturalmente dei dipendenti diretti, sono le partite IVA, gli autonomi, lavoratori agricoli indiretti, il turismo, lo spettacolo, cui si aggiungono lavoratori in articolo del decreto il 44, sono le badanti, gli occasionali, gli stagionali, i lavoratori a chiamata. Prima mi parlavi del settore del turismo, sicuramente lì ci sono almeno una dozzina di professioni di profili diversi e dovrebbero in larga parte tutti rientrare, visto che è sostanzialmente il settore che diventa benchmark per quel che riguarda gli effetti del lockdown e gli effetti di questa crisi da Covid-19, nel senso che lì è l'intero comparto che in questo momento è al palo, e quindi io credo che tutti i profili professionali di quel comparto, fuori anche dai lavoratori dipendenti, potranno beneficiare di questo bonus da 600 euro. Per quello che riguarda il mese di aprile, diciamo che è presto dirlo, il governo è stato molto esplicito però in questo senso, ha detto che le misure, se necessarie, saranno rifinanziate, quindi nell'intervista che pubblichiamo domani con il presidente dell'INPS, lui dà questo è conseguente, nel senso che dice, anzi precisa, non c'è un click day per cui bisogna fare la corsa, fare la domanda dei bonus, perché c'è un primo giorno in cui da cui iniziano queste... Ma arriveranno subito, cioè uno fa tutta la procedura semplificata e poi gli arrivano come e quando? L'erogazione dovrebbe essere con un bonifico IBAN per chi ha già il libretto, il cosiddetto libretto famiglia INPS, utilizzato per esempio per pagare il voucher alla badante o alla babysitter, e in quel caso è una sorta di bonifico che nel giro credo di 24 ore dopo avere avuto via libera alla domanda si ottiene il bonifico. Io penso che siano tempi di erogazione abbastanza automatici, perché la procedura, come dicevo prima, del giornale radio è una procedura molto semplificata, almeno così annunciata, con un PIN che viene comunicato sul telefonino, per cui a quel punto dovrebbe essere una erogazione abbastanza fluida, ecco, sui tempi naturalmente vediamo come inizia. C'è un termine di paragone molto interessante, se vuoi, qui stiamo parlando di un pacchetto di circa 16 misure che muovono 10 miliardi e mezzo e che hanno come platea di beneficiari all'incirca 11 milioni di potenziali lavoratori o persone che possono essere nelle condizioni di avere un aiuto per questa emergenza. Il paragone più facile è il reddito di cittadinanza e quota 100, che l'anno scorso hanno mosso un po' meno di 8 miliardi per 2,5 milioni di soggetti. Quindi diciamo che è un salto di scala, se vuoi, che INPS sta affrontando per l'erogazione di questo tipo. Questo al netto della cassa integrazione ordinaria, sì, della cassa integrazione deroga, naturalmente. Allora, grazie anche a Davide Colombo. Ah, scusami, un'ultima domanda che mi fanno in tanti, ma i professionisti? Allora, i professionisti sono coperti da un fondo residuale di 300 milioni e anche qui è in corso di elaborazione un decreto ministeriale per l'attuazione. Dovrebbe funzionare in questo modo. Diciamo che fino a 20.000 euro di reddito dovrebbero avere una copertura totale con questo fondo, che è un fondo un fondo di ultima istanza di finanziamento di fiscalità generale. Tra 20.000 e 35.000 e tra 35.000 e 50.000 potrebbe essere richiesto un concorso delle casse di appartenenza per gli iscritti alle casse. Se iscritti esclusivamente alla loro cassa, non se hanno anche una posizione INPS, è un contributo complementare. Però questo è un contenuto di un decreto ministeriale che dovrebbe uscire, secondo le ultime informazioni del Ministero del Lavoro, entro venerdì. Grazie, l'importante anche perché mi scrivevano molti professionisti. Grazie anche a Davide Colombo. Dunque, qualcuno mi continua a dire, ma non dovete guardare. Guardate, noi utilizziamo lo stesso dato che usa la Protezione Civile, che ci dice i nuovi contagiati, mi riferisco al calcolo percentuale. Perché molti mi dicono ma i nuovi contagiati sono al netto dei guariti e dei deceduti. Ho capito, ma l'importante è l'aumento giornaliero dei positivi, perché utilizziamo quello come parametro da quando stiamo guardando e abbiamo la serie dal sabato 22 febbraio, anzi venerdì 21 febbraio, quando c'erano solo 3 positivi in tutta Italia. Però abbiamo tutta la serie storica. Tra l'altro faccio notare che l'Emilia Romagna, che dopo la Lombardia è la regione più colpita, ha visto salire a 10.000 in tutti i casi di positività, 800 in più di ieri. Però i pazienti in terapia intensiva sono 294, 3 in più di ieri, e però il trend, lo dice Sergio Venturi, che è il commissario per l'emergenza, non è negativo, ma è più comincia a essere significativamente in riduzione, anche se è più lento di come vorremmo, cioè non si va in negativo. Non ho ancora il dato sulle varie regioni, che di solito esce, però adesso andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, sì, appunto, i guariti sono 1036 più di ieri, mentre i malati, ossia chi è stato contagiato, sono 3612 più di ieri. Non posso. Il numero complessivo, visto che ci sono 57.000 positivi, ma il numero complessivo, se si levano i guariti e se si aggiungono i guariti e le vittime, perché i 57.000 sono quelli che sono ancora o a casa in quarantena o in ospedale, è di 74.000 persone, però quelle che attualmente non sono né guarite né per fortuna decedute sono 57.520. Noi continuiamo in questi giorni, lo facciamo da settimane, andare nei vari settori, perché ripeto, la cabina di regia, un gruppo di lavoro a Palazzo Chigi nel governo di carattere economico dovrà prendere anche i casi, andare a vedere ogni singolo settore, non sono tutti messi nello stesso modo, per fortuna in alcuni casi. E allora c'è un settore che è il settore marittimo. In questo momento le società amatoriali e tutti coloro i quali lavorano, più di 50.000 occupati e 500 navi, sono in ginocchio per due motivi. Uno, chiaramente avete visto cosa è successo tutto il tema crocieristico, ma c'è anche un problema di attività vera e propria di carattere portuale. Stefano Messina, che è presidente di Asso Armatori, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Messina, mi dia intanto lo stato della situazione. Noi cerchiamo di parlare di tutte le categorie, arriveremo, qualcuno dice non parlate mai di chi lavora nelle palestre, arriveremo anche a loro, cioè ragazzi, è tutto il paese, o meglio metà del paese, da quello che dice l'Istat, è fermo. Qual è il problema che state riscontrando? Ha ragione, probabilmente anche molto più della metà, mi rendo conto che ogni settore ha le sue specificità e le sue peculiarità. Guardi, nel trasporto marittimo diciamo c'è uno scenario generale pessimo, ma è bene sottolineare, è agli occhi di tutti quello che è accaduto nelle crociere, nel trasporto passeggeri, ma non le farei perdere tempo, perché oggi è induttivo anche per chiunque, non bisogna essere degli esperti per pensare che oggi quel mercato è a zero. Le principali compagnie al mondo hanno azzerato le crociere, hanno fermato le navi al mondo, ma vediamo titoli quotati in borsa che fino a due mesi fa capitalizzavano miliardi, cioè decine di miliardi, in America la Carnival. Abbiamo due leader in Europa che sono la MSC e la Costa, che sono massacrati nei loro conti economici. Però ecco, oggi quello che vorrei sottolineare, e grazie dell'opportunità e per il lavoro che state facendo, è il settore del trasporto marittimo in Italia, che è quello che è il cabotaggio peninsulare. No, ma infatti famosa... dicevo, ci sono due categorie, una è diciamo il mondo del turismo, il lato del trasporto, esatto, marittimo, e quindi sappiamo, io li temo, ma non voglio portare sfiga, temo che dopo quello che è successo con navi bloccate in giro per mezzo mondo, lì il turismo croceristico non so se si riprenderà anche terminata l'emergenza, però andiamo, almeno non è breve. E poi lei parlava invece della parte cargo, quindi del trasporto merci, non interrotta. Sì, il trasporto merci, anche questo con il venir meno delle produzioni industriali, è chiaro che subisca una riduzione della domanda, che è un effetto dei PIL negativi che avremo in tutto il mondo, no? Ma in particolare quello che ci tengo a sottolineare è il trasporto nazionale. Oggi il trasporto marittimo in Italia è un'infrastruttura fisica data da decine di navi che collegano regolarmente i porti principali sia nella penisola, non so, le faccio un esempio, Livorno, Napoli, piuttosto che il Genova-Napoli o sull'Adriatico, e sia i collegamenti con le isole. Poi in Italia noi abbiamo milioni, oltre 15 milioni di abitanti che abitano le isole maggiori, la Sardegna e la Sicilia, che sono collegate regolarmente con servizi eccellenti. L'Italia, nessuno lo sa, ha la più grande flotta di traghetti che portano merci e passeggeri al mondo, è la leader al mondo, è un'eccellenza. Il nostro settore è poco conosciuto nei suoi know-how imprenditoriali, industriali, legato alle capacità cantieristiche, la Fincantieri, ma tanti certo. Altri cantieri che costruiscono, fanno costruzione, non costruiscono solo le navi da crociera, costruiscono anche i navi traghetti, quelli con cui andiamo in vacanza, e quelli che collegano regolarmente anche le merci, danno i servizi pubblici essenziali, alimentano la grande distribuzione, la sanità, gli ospedali, le scuole. Questo è a terra. Perché? Perché è crollato il trasporto passeggeri, con gli obblighi giusti che ha dati il governo. Qui non si può pensare che non siano giusti i provvedimenti, però gli effetti sono devastanti. Io non metto in discussione i provvedimenti, siamo tutti in casa. Io oggi ma voi quindi, quando ci sarà modo, noi poi abbiamo bisogno di un aiuto contingente, sostanziale, che sia considerata. Ma la cassa integrazione in deroga non è, come aiuto contingente, allora, cioè in queste settimane, sufficiente? Allora, innanzitutto il nostro settore non ha la cassa integrazione in deroga, perché il settore marittimo ha un fondo di solidarietà bilaterale che con lungimiranza abbiamo attivato nel 2014. Oggi ha una giacenza media di alcuni milioni di euro, assolutamente insufficiente. Tra le richieste che crediamo di buon senso, abbiamo anche chiesto quello di alimentare questo fondo di solidarietà, su cui hanno contribuito e continuano a contribuire per due terzi i datori di lavoro, per un terzo i sindacati. Vorrei spendere una parola per i sindacati, che nel nostro settore stanno dimostrando grande senso di responsabilità, perché noi imprenditori abbiamo attivato tutte le emergenze in un protocollo coordinato col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si è attivato immediatamente nel dare massima disponibilità, reattività. Abbiamo un apparato statale che per fortuna in alcuni punti della pubblica amministrazione funziona, ha reagito, sta dando grande collaborazione. Noi continuiamo a far viaggiare le navi con tutti quelli che sono i DPI necessari, le procedure, le mascherine. Quindi l'aiuto, perché devo concludere, abbiamo dei costi, l'aiuto deve entrare attraverso il fondo, cioè rimpinguando, se ben capito, il fondo di solidarietà. È così, per ora. Deve essere alimentato ulteriormente il fondo di solidarietà. Mm-hmm. Per adesso noi armatori stiamo tenendo in continuità i servizi, non stiamo smettendo i collegamenti, quindi non ci sono grandi fenomeni di minore occupazione. Ma questo è un problema a termine, c'è un problema di liquidità. C'è un problema di liquidità perché le prenotazioni dei passeggeri, come potrete capire, si prenota oggi da marzo, aprile, Pasqua, a luglio, agosto, per andare in Sicilia, in Sardegna, all'Isola d'Elba, Golfo. No, ma Napoli. È chiarissimo, mi interessava sentire, appunto, perché vedete che poi quando si va nel dettaglio ogni categoria, ogni settore economico ha dei casi molto specifici. Grazie anche a Stefano Messina, presidente di Asso Armatori. Un'ultima notizia, viste? Allora, la Protezione Civile fa sapere che non è diminuito il numero dei tamponi, quindi a chi mi scrive dicendo calano i nuovi contagiati perché calano i tamponi, non è così, e dice adesso la curva si sta stabilizzando, è un momento delicato, non bisogna abbassare la guardia, sennò potrebbe risalire, ma è vero che si sta stabilizzando. Wall Street invece sta volando oggi, recuperando molto, più 5,40%, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, da passare rigorosamente in casa.